in primo piano. Buongiorno ancora a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, oggi inevitabilmente dopo la kermesse del partito del Popolo della Libertà, i giornali sono pieni di articoli. Inevitabilmente i resoconti prevalgono su qualunque altro tema. A fondo di Berlusconi, titolo del Corriere della Sera, più poteri al Premier, e questo in effetti è il tema centrale. In tutti i titoli prevale questa richiesta che è stata lanciata ieri con forza da Silvio Berlusconi. La Stampa: ora più poteri al Premier, Berlusconi: faremo le riforme anche senza il Partito Democratico. Repubblica: Berlusconi: più poteri al Premier, il Presidente del Consiglio chiude il congresso del Partito del Popolo della Libertà e Franceschini chiede dialogo sulle modifiche alla Costituzione, ma prima devono pensare alla recessione. Il Giornale ricorda, sotto il titolo Il giorno dell'orgoglio, che il Popolo della Libertà è il più grande partito moderato d'Europa. Il Messaggero: Berlusconi fonda il Popolo della Libertà, ora le riforme. Tra le riforme, anche qui, segnalato, più poteri al Premier, adesso sono finti e porteremo in questa maniera l'Italia fuori dalla crisi. Come lettura del congresso fondante del Popolo della Libertà, direi che l'articolo più interessante, che ha più accolto i temi di questi tre giorni, è quello di Angelo Panebianco, in prima pagina sul Corriere della Sera. Cosa scrive Panebianco? Tra le altre cose: Forza Italia, così come Berlusconi volle all'inizio e come ancora ribadì nella campagna elettorale del 2001, era simbolicamente il partito della rivoluzione liberista. Meno tasse, meno Stato, più liberalizzazioni, più libertà d'impresa. Il Popolo della Libertà si configura invece, sempre simbolicamente ben inteso, come il partito della riforma dello Stato, della Costituzione, della pubblica amministrazione, eccetera. È vero che la riforma dello Stato era comunque un elemento ben presente nell'identità di Forza Italia. Berlusconi parlava già nel 1994 di riforma dello Stato. Ed è ugualmente vero che il suo precedente governo diede vita a una profonda riforma della Costituzione, poi bocciata dagli elettori in un referendum. Ma anche è vero il fatto che la riforma della Costituzione dello Stato veniva allora invocata come strumento per una più efficace realizzazione della promessa rivoluzione liberista. Era quest'ultima la meta finale? Era quest'ultima la vera ragione d'essere di Forza Italia? Ecco, in realtà quello che scrive Panebianco è molto interessante, perché dice che non è proprio più così per il Popolo della Libertà, perché la rivoluzione liberista è andata definitivamente in soffitta, e non solo perché questi tempi di crisi registrano ovunque il prepotente ritorno dello Stato. Il cambiamento era in atto da tempo. La campagna elettorale di Berlusconi nel 2008 era già molto diversa dalle sue campagne precedenti. A fare da apripista in larga misura era stato l'attuale ministro del Tesoro Giulio Tremonti, che già da tempo proponeva una visione dei rapporti fra Stato e mercato assai lontana dal liberismo delle origini. Scomparsa la rivoluzione liberista, resta e diventa costitutiva dell'identità del nuovo partito la riforma dello Stato. Ed è questo un altro tema importante dell'articolo di Panebianco, che attacca un tema molto trattato in questi ultimi giorni. Si sono sprecati, scrive Panebianco, in questi giorni i confronti fra la DC e il Popolo della Libertà, ma si dimentica una differenza simbolica essenziale. La DC era il gestore, il custode della Costituzione e dello Stato. Il Popolo della Libertà si presenta invece come il campione del cambiamento costituzionale e statuale, cioè dello Stato. Ne potrebbe essere altrimenti, essendo proprio di tutte le leadership carismatiche proporre radicali cambiamenti, mai la tranquilla gestione dell'esistente. Quindi Panebianco coglie questa profonda differenza. Non è il Popolo della Libertà la nuova Democrazia Cristiana, ma qualcosa di profondamente diverso. Un altro tema interessantissimo degli ultimi tempi e degli ultimi giorni è stato il rapporto con Fini, tra Berlusconi e Fini. E si è parlato di un possibile antagonismo, e oggi è interessante cogliere un cenno di preoccupazione per i rapporti all'interno del nuovo partito, del Popolo della Libertà, nell'editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio. Il Foglio, il lunedì, il suo direttore dedica sempre un approfondimento ai temi della politica. ed è proprio nella chiusura dell'articolo che si possono cogliere temi interessanti e questa preoccupazione di Ferrara. Non si sa bene perché, ed è interessante proprio come Ferrara parte, ma adesso viene avanti il governo, il progetto, vengono avanti le idee, i portatori di idee più o meno sani, viene avanti una sfida interna nei percorsi della politica, che fino a ieri Berlusconi aveva evitato. Non è proprio la statua del commendatore che appare a Don Giovanni, ma siamo lì, insomma, e qui è la citazione del convitato di pietra. Ora che il carisma ha fatto piazza pulita delle vecchie impalcature intellettualistiche e ha spazzato via la boria egemonica dei dotti e dei regionatori politici, proprio ora il cavaliere è chiamato ad affrontare, e lo vedremo presto, una stagione di dibattito e di insidia politica in casa sua. In realtà questi timori sembrerebbero evaporare dalle prime battute di Fini e degli altri colonnelli del nuovo partito, nato dalla fusione fra AN e Forza Italia. Per esempio Fini, che ieri non era presente al congresso, pare abbia profondamente apprezzato le parole di Berlusconi. Ora che il partito è nato, scrive per esempio Francesco Verderami sul Corriere della Sera, e che ora che ha un leader, e quindi ora che insomma, Forza Italia e AN non esistono più, non potrà accadere, ed è questo tra virgolette, che il leader dica si fa così. Queste sono parole che vengono attribuite a Gianfranco Fini, e quindi, prosegue Verderami, i timori di un moderno cesarismo non affollano più i pensieri di Gianfranco Fini, che crede nel popolo della libertà e ne immagina il percorso. L'ex capo di AN si è compiaciuto quando ha sentito dire al Cavaliere che il PDL dovrà essere una fucina di idee e di programmi, perché un grande partito, questo ha detto Berlusconi ieri, ha bisogno di sensibilità diverse, e se tutto ciò non si trasforma in correntismo è il lievito della democrazia. Una cosa che invece oggi sorprendentemente è scomparsa dai giornali, un poco come nei giorni scorsi devo dire, ma forse oggi se ne sente ancora di più la mancanza, è la voce dell'opposizione. È vero, Franceschini è in Cile, però obiettivamente nelle cronache mancano in maniera notevole le reazioni del centrosinistra, del Partito Democratico e degli altri partiti dell'opposizione. Ne dà conto il giornale, pagina 11, in un articolo di Laura Cesaretti. Meno male che Fini c'è, annuncia Eugenio Scalfari, e in questo caso si riferisce la giornalista all'editoriale di ieri, di domenica, del fondatore di Repubblica. Nell'invocazione del fondatore, che appunto si intitolava Meno male che Fini c'è, ieri Scalfari prendeva moltissimo delle posizioni di Fini, utilizzandole proprio come strumento critico nei confronti di Berlusconi. Nell'invocazione del fondatore di Repubblica, scrive Laura Cesaretti, c'è molto dello smarrimento di un mondo di sinistra che di fronte al dilagare del berlusconismo vincente non riesce a vedere altri argini che quelli interni al centrodestra. In effetti, gli argini del centrosinistra mancano. Franceschini, per esempio, intervistato da Repubblica a Santiago del Cile da Goffredo De Marchis, che è appunto con lui in questa missione per i partiti della sinistra riuniti a Santiago, gli fa dire che accetta la sfida. Ma quale sfida accetta Franceschini, il segretario del Partito Democratico? Accetta in realtà la sfida elettorale più che la sfida sulle idee o sui programmi. Pare che insomma il segretario del Partito Democratico sia intenzionato ad accogliere la sfida che ha lanciato ieri Berlusconi. Berlusconi ieri ha chiesto al suo diretto antagonista di candidarsi alle elezioni europee in maniera tale da fare uno scontro diretto, un corpo a corpo. Durante una scala del volo di ritorno dal Cile, scrive Goffredo De Marchis su Repubblica, il segretario legge attentamente le agenzie del discorso di Berlusconi, soprattutto la parte in cui il Premier chiarisce i confini obbligati della sua corsa alle prossime europee, tanto criticata da Franceschini nei giorni precedenti. La mia, scrive Berlusconi, cioè dice Berlusconi, è una candidatura di bandiera. Il leader dell'opposizione faccia la stessa cosa, rilancia il cavaliere dal congresso del PDL. È una candidatura forte, fortissima, alla quale, dopo aver varato il regolamento delle incompatibilità, il Partito Democratico sembra aver ancora trovato le adeguate contromisure. Una però ci sarebbe, ed è quella del corpo a corpo, cioè di una candidatura del segretario. Il sorriso strano di Franceschini, che appunto di cui racconta Goffredo De Marchis, nasconde questa tentazione, innescare una clamorosa marcia indietro, abbandonare lo slogan Berlusconi prende in giro gli italiani e metterci la faccia. Una reazione forte, in una intervista decisamente altrettanto forte, è quella di Antonio Di Pietro, il segretario dell'Italia dei Valori, in un'intervista di Francesco Bei. Di Pietro contesta tutto del discorso di Berlusconi e addirittura invita tutto il centro-sinistra, il Partito Democratico soprattutto, a non cadere nel trabocchetto del ritorno agli inciuci, alle bicamerali. Dopo aver detto che Berlusconi è tornato a parlare con le parole che ha sempre utilizzato nel corso della sua carriera politica, il muro di Berlino è caduto nell'89, non mi pare che in Europa si propongano regimi comunisti, dice Di Pietro, Berlusconi cerca di spostare l'attenzione dalla crisi con un uso strumentale della storia, la frase forte di questa intervista è questa: qualsiasi riforma finché c'è Berlusconi al potere verrà usata per raggiungere fini illeciti. Al PD, al Partito Democratico, ricordo che con il serpente non si gioca, perché prima o poi quello ti morde e ti uccide. Anche Casini, Pier Ferdinando Casini, il leader dell'UDC, è critico nei confronti del Premier. In realtà dice a Berlusconi: nessuno ha mai avuto tanti poteri, quindi non è vero che il Presidente del Consiglio in Italia non sia in grado di governare, e sì, Berlusconi cerca soltanto un alibi per le sue difficoltà. Però al tempo stesso, da buon centrista, critica anche il Partito Democratico, perché dice che l'opposizione urlata del Partito Democratico è un favore a Berlusconi, questo sul Messaggero. C'è poi un altro tema oggi che riempie le prime pagine dei giornali, soprattutto Repubblica e Corriere della Sera, che dall'impaginazione sembra proprio aver colto l'informazione all'ultimo momento, ma sicuramente bene, ed è quella dell'auto. Ci sono due notizie parallele che messe insieme rappresentano praticamente un terremoto nel mondo dell'auto internazionale. La Peugeot licenzia il suo amministratore delegato Christian Streff e la General Motors dà la notizia dell'uscita di Richard Wagner, il suo amministratore delegato. Sono due dimissioni non molto spontanee, entrambe causate dal problema degli aiuti di Stato. Leggiamo il Corriere della Sera, un articolo di Massimo Nava da Parigi per quel che riguarda Peugeot. Alcune posizioni pubbliche assunte da Streff sulla crisi dell'auto e sul modo di uscirne e una non nascosta insofferenza verso possibili condizionamenti in relazione agli aiuti di Stato avrebbero raffreddato i rapporti dello stesso amministratore delegato con gli azionisti. Il Consiglio di sorveglianza, in realtà, ha proprio ieri, sotto la presidenza di Thierry Peugeot, che è il rappresentante della famiglia e azionista di riferimento con il 30% delle azioni della casa automobilistica francese, ha messo fine al mandato dell'amministratore delegato. È una decisione che appunto avviene a sorpresa e fa sì che Streff verrà sostituito da Philippe Varin, 56 anni, ex dirigente di Pechiney, passato alla Corius, gruppo siderurgico anglo-olandese recentemente acquisito dall'Indiana Tata. In parallelo, dopo un'intervista rilasciata da Obama alla CBS di qualche giorno fa, questa è l'intervista ricordata su Repubblica a pagina 3, diceva Obama qualche giorno fa: con la crisi attuale il mercato delle auto nuove in America è calato drasticamente da 14 a 9 milioni di vetture. Tutte le case automobilistiche hanno problemi, perfino Toyota e altri gruppi molto importanti. Stiamo cercando di far capire loro che vogliamo che l'industria automobilistica statunitense vada sempre alla grande, ma è necessario che sia strutturata molto razionalmente per far fronte alla tempesta in corso ed emerge più snella e agile, ed emergerne più snella e agile, più competitiva. Ciò implica una serie di sacrifici da parte di tutte le parti coinvolte, i manager, la manodopera, gli azionisti, i creditori, i fornitori e i concessionari. Ed ecco il risultato, terremoto, a sorpresa lascia Wagoner. Vediamo cosa dice. Gaitner ha confermato che il governo è pronto a prestare altro denaro a General Motors e a Chrysler per arrivare in fondo a un 2009 difficilissimo, ma quindi questo è lo scotto che deve pagare la casa, è l'uscita di scena di Wagoner che in qualche maniera paga il prezzo di un management che evidentemente ha dato scarsa prova negli ultimi tempi. È un po' in parallelo quello che è capitato a AIG, dove c'è stato il grandissimo scandalo dei bonus versati nel momento in cui la casa finanziaria riceveva grandi aiuti di Stato dal governo federale americano. Un tema che segnalo, molto importante e interessante, è quello del Congresso Nazionale di Magistratura Democratica, altro tema trattato oggi dal Corriere della Sera. La corrente di sinistra della magistratura è divisa. La vecchia guardia è contestata dai giovani di Magistratura Democratica. Magistratura Democratica è una delle principali correnti della magistratura italiana, ha più o meno 900 iscritti su un totale di circa 9.000 magistrati in questo paese, ma sono molto capaci di condizionare potentemente la vita dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. A Roma, a Modena si è svolto il congresso nazionale e in questo congresso molti magistrati delle più giovani generazioni hanno contestato la difesa a oltranza dell'assetto attuale della magistratura e hanno chiesto quindi un maggiore confronto con il governo. Tra le altre notizie segnalo sulla stampa una storia molto tracciata in profondità da Ferruccio Sansa a Genova, la storia di Gabriele R, 55 anni, che si è ucciso per aver perso il lavoro. È una pagina intera, un articolo molto interessante in momento così cupo, delicato anche a tratti. Questo disoccupato, 55 anni, lascia una lettera nella quale lungamente racconta quali sono i suoi sentimenti. Ecco, la Lega nel frattempo è l'alleato del PD, torna a scatenarsi come nella campagna elettorale verso le prossime elezioni amministrative, soprattutto nel nord. C'è uno scontro per la candidatura in Lombardia, in Veneto e in Piemonte. Cresce quindi la competizione elettorale all'interno del centrodestra. Un altro tema interessante è venuto ieri, proprio per la riunione dell'OCSE, dalla quale è uscito il dato che la disoccupazione crescerà sopra al 10% nei paesi del G8 nel corso di quest'anno. Su questo tema il ministro del welfare Maurizio Sacconi si è detto decisamente scettico, ha criticato anzi l'OCSE per questo tipo di annunci, ricordando che spesso capita che gli annunci poi vengano moderati e rivisti in un secondo momento. Sto cercando l'articolo, ma non riesco a trovarlo, e noi ci risentiamo domani. Grazie.